Dean Giorgio, si prepari Giambattista Campo Resnanti. Buongiorno a tutti. Ma io ho ascoltato con molta attenzione la relazione e alcuni punti mi hanno proprio stimolato. Ad esempio che la frase che Rosina ripeteva all'inizio, le parole d'ordine del 2013 erano spostare il sindacato nel territorio, più soldati e meno generali. Poi dobbiamo andare a fare una verifica. I soldati sono sempre quelli, i generali sono sempre quelli. Perché? Mi spiego, è inutile che muovi la testa così, mi spiego perché. Perché abbiamo notato che i generali sono diminuiti, nel senso che le segreterie da 5 a 3, poi sono aumentati gli staff. Segretario nazionale è così. Sono aumentati gli staff e di conseguenza le risorse per il territorio sono sempre quelle, altri sono meno, perché il numero degli iscritti è diminuito. Lo so che dico cose antipatiche, ma io sono abituato a fare i conti, 1 più 1 uguale 2. Poi l'aspetto della riorganizzazione, il fatto che bisognava potenziare le zone CISL, noi siamo stati una di quella struttura, Piemonte Orientale, che ha riunito 4 ex province. E però se io guardo la mia realtà dal mio punto di vista, Biella, io noto che la sede CISL, mentre prima in qualche modo era frequentata, soprattutto dagli attivi, perché noi pensionati ci siamo sempre in campo, e non li troviamo mai, non li vediamo proprio. Sono andati o al regionale o al coordinamento delle 4 province, comunque sono introvabili da parte di chi ha la necessità di avere delle risposte, e molte volte le risposte le diamo noi. Se vogliamo essere onesti, dobbiamo dire che le cose sono così. Se vogliamo dire altre cose, possiamo anche dirle. Poi c'era la questione di tutelare in modo particolare gli iscritti. E gli iscritti molte volte non riusciamo a tutelarli. Perché? È perché i servizi che abbiamo, e io devo dire che sia coloro che operano nel CAF, sia coloro che operano all'INAS, sono oberati di lavoro, veramente oberati, che non hanno il tempo di alzare la testa e non riescono a rispondere a tutte le cose. Però c'è un altro problema, è un'iniziativa che dovremmo prendere a livello piemontese, penso anche a livello nazionale, è la questione che riguarda il ruolo che ha l'INPS. A me pare che l'INPS non svolga più nessun ruolo. Poi non so se avete trovato le persone che sono andate all'INPS, dove gli hanno detto: vai dal patronato, vai dal CAF, noi non ti possiamo aiutare in nessun modo. Questa è la risposta dell'INPS. Hanno scaricato tutto il lavoro che facevano prima sui nostri servizi, che non ce la fanno più chiaramente con i tagli che hanno avuto. Questo lo dobbiamo riconoscere. Poi c'è il problema della crisi. Il problema della crisi è grave perché nessuno sa dare risposte. Non siamo in grado di dare risposte, è un nostro limite. Non lo danno i politici, non riusciamo a darlo noi come sindacato, ma ancora meno lo dà l'Europa, perché quando stamattina abbiamo sentito l'inno europeo, bella cosa, però nell'inno europeo ci sono tutti gli egoismi nazionali. Vediamo la Germania, vediamo la Francia, vediamo altri come hanno massacrato la Grecia. E cosa ci stanno facendo anche a noi? Perché non è che ci stanno collaborando, Perché sulle misure che dovrebbero essere generali per tutti, ad esempio la questione fiscale, e com'è che vanno in Olanda e fanno il centro in Olanda per pagare meno tasse? Questo è una roba che dovrebbe essere la prima cosa da vedere, che in una comunità europea le tasse dovrebbero essere uguali per tutti, non solamente approfittare dei paesi vicini per poter evadere un bel po', io chiamo evasione, un bel po' di tasse. Quindi la crisi non so come ne verremo fuori. Io so una cosa per certa, che le persone che sono state licenziate fanno una fatica tremenda a trovare il lavoro. E su questa roba vi voglio dare alcuni dati. la Rosina diceva già quelli a livello nazionale, l'aumento delle povertà che ci sono. Io vi dico qual è la situazione a livello biellese. A livello biellese sono 23.900 le persone che sono in cerca di occupazione. Poi guardo un giornale, l'altro giorno, sono 6.000. E dove sono andati a venire gli altri? E sono anche suddivisi per classi di età. Perché l'altro problema è questo. Si continua a parlare di lavoro ai giovani, io sono d'accordo. Ma quelli che sono stati espulsi dalla produzione, dall'attività lavorativa, non sono solo giovani, eh? Allora, le classi di età sono queste. Dai 15 ai 25 anni, 3.300 che sono fuori. Dai 26 ai 39 anni, 6.292 che sono fuori. Dai 40 ai 49 anni, 5.684. E oltre i 49 anni sono 9.600 che sono fuori. Allora c'è un piccolo problema. È giusto difendere i giovani, ma gli altri chi li difende? Allora vi porto l'esempio che mi è capitato l'altra settimana, ma sono centinaia di questi casi, eh? Una signora non trovava lavoro, 44 anni, 4 anni di disoccupazione, 4 anni che era fuori dal mondo del lavoro, ha trovato un lavoro alla TIM, sapete quei chiostri che ci sono dentro nei supermercati? Offerta qual è? L'offerta sono partita IVA più 400 euro al mese. Questa è l'offerta di lavoro che ha ricevuto. L'ha presa perché chiaramente piuttosto che niente meglio piuttosto. Però questi sono i drammi. Allora, di fronte a situazioni di questo genere, sulle politiche generali non possiamo continuare a far finta di niente. Io l'ho detto, io ero contrario ai voucher, sono contrario ai voucher. La soluzione passa attraverso un altro tipo di rapporto di lavoro e continuerò a dirlo. E sono due: assunzione a tempo determinato e assunzione a tempo indeterminato. Qualcuno mi dirà, ma come si fa a assumere a tempo determinato? Molto semplice, si snelliscono le procedure. Io assumo una persona perché ho bisogno domani a tempo determinato, per un giorno anche solo, e comunico all'INPS che assumo quella persona lì, punto. Finita la discussione. Dobbiamo proprio complicarci la vita con 100.000 tipi di accordi e di contratti diversi uno dall'altro. E soprattutto il salario deve essere un salario un po' dignitoso. Altrimenti corriamo un rischio veramente di non riuscire ad andare da nessuna parte. Scusatemi, ma il tempo vola, salto questo argomento e vado a quello che mi sta a cuore. Contrattazione sociale. Sulla contrattazione sociale, secondo me manca una regia di coordinamento. Io ho fatto la contrattazione per Biella. Abbiamo fatto 25 accordi l'anno scorso. So, se non vado errato, perlomeno mi risulta che in tutto il Piemonte ce ne sono stati 78. E c'è qualche problema allora, eh? C'è qualche problema. E dove siamo andati a contrattare? Non è che abbiamo risolto grossi problemi, eh? Perché i comuni ci dicono tutti, soldi non ne abbiamo, abbiamo continui tagli dal Fondo Nazionale e quindi di conseguenza non possiamo spendere più di tanto. E qui c'è l'altro grosso problema. Quando si parla di sostegno del reddito, io voglio vedere, cioè non voglio vedere, io vedo che sostegno del reddito hanno i cittadini di quei comuni. Perché la SIA, vorrei sapere quanti accordi sono stati fatti a livello regionale, quante applicazioni sono state fatte. Per quello che mi risulta, per il mio territorio, pochissimi. Perché? Perché hanno messo limiti talmente restrittivi che la gente non rientrava in quei criteri lì. E lo stesso vediamo adesso il nuovo sistema di protezione sociale, che cosa porterà? Perché la gente veramente è disperata. Uno che lavora, uno che ha un reddito, non si rende conto. Uno che non ha più niente, e noi li vediamo tutti i giorni nei nostri uffici e non sappiamo dargli delle risposte, abbiamo problemi di questo genere. Quindi bisogna operare direttamente con le persone, ma bisogna essere anche in grado di poter dargli delle risposte. Noi attualmente abbiamo delle difficoltà a dare risposte, perché non abbiamo le finalizzazioni, non abbiamo la possibilità. Allora tutto deve partire dal livello nazionale, sto nei tempi perché chiudo, dobbiamo partire dal livello nazionale perché è lì che si creano le premesse, è lì che ci sono le possibilità di creare qualcosa. E permettetemi una battuta, i nostri politici siano un po' più seri e a livello nazionale anche si facciano un esame di coscienza i nostri sindacalisti.